Quando sono su, pago la Tarsù, quando sono in allegria, paghi la Tia, quando sono in pari, pagherò la Tari. Ascoltarvi anche quando si lavora è veramente piacevole Cristina, e che ci carina che alleggerite veramente la giornata. Guardi, Cristina, sicuramente faremo un taglietto del suo intervento e lo spareremo nei prossimi giorni. Tari, amici miei, con Imu e Yuk sono giacciuk, la tia per mia zia, la Tari ci brucia i denari. Siete mitiche, vi fate impazzire. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, tornate da Firenze, iniziamo una nuova settimana e già subito, track, che ci scontriamo con la durissima realtà. Beh, noi anche noi a Radio 24 come uomini siamo messi bene. Ti riferisci? Anche noi abbiamo i nostri belli. No, ma cioè, ma che cosa hai capito? Mi riferisco alla mini Imu. Che è stata confermata, dai. Eravamo già lì tutti sognanti, pensando che non ci fosse più, e invece c'è, e non solo, va pagata entro il 24 gennaio. Non c'è scampo in circa 2.400 comuni italiani. E questo è il tema che affrontiamo oggi, non solo, a Cuore Denari, quindi subito, pronti via con le vostre domande. All'800 24 00 24 abbiamo un esperto che risponderà anche a microfoni spenti dopo la fine della trasmissione a tutti i vostri quesiti su questa mini scadenza. Una tassa già fastidiosa di per sé perché dobbiamo pagarla, ma ancor più fastidiosa perché siamo stati nell'incertezza in questi ultimi mesi e questo ha fatto arrabbiare i contribuenti, li ha proprio infiammati, direi, Nicoletta. Hai ragione Deborah, e siamo tutti infiammati, la mini IMU infiamma l'Italia, ma non sono solo le tasse a infiammarci, anche le scelte del nostro stile di vita producono delle conseguenze e alla fine ci presentano il conto che a volte può essere anche molto salato. E quindi oggi parleremo degli effetti che il nostro stile di vita ha sul nostro benessere o sul nostro malessere, perché a volte siamo davvero infiammati e cercheremo di capire quanto siamo infiammati. Ci sono dei dettagli, dei segnali, dei campanelli d'allarme, andremo a scoprirli insieme al nostro esperto che naturalmente ci suggerirà anche delle strategie per ritrovare il nostro benessere. 800 24 00 24, se a infiammarvi non è solo la mini IMU. Salva Danaio. T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Mai guardato? Piccola, piccola così, ma piccola quanto? Si chiama mini IMU, ma ci spaventa molto e oltre a spaventarci c'è anche un po' infastidito, perché fino all'ultimo momento non eravamo certi di doverla pagare, anzi abbiamo un po' confidato che questo non accadesse. La risposta invece è arrivata da pochi giorni con la conferma del ministro Saccomanni a ridosso della scadenza per il pagamento che è stato fissato per il 24 gennaio e molti italiani sono confusi ed arrabbiati. 2.400 i comuni in cui si paga, questo strascico di imposta, oggi lo vogliamo definire anche così, e oggi torna a spiegarci che cos'è, perché va pagata e come si calcola il dottor Massimiliano Sironi, presidente della Commissione Diritto Tributario Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. L'ultima volta che dico tutta la carica tutta insieme, sì, dottor buongiorno. Sironi. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Eccoci qua allora, insomma, dottor Sironi, un residuo dell'IMU che avremmo dovuto pagare a dicembre, poi è stata tolta a livello nazionale, a dicembre era il saldo, c'era stato il famoso acconto di giugno sospeso fino a settembre, tanta confusione normativa, e però restano gli aumenti delle aliquote previsti dai comuni. Chi abita in questi comuni pagherà, è così, e la cifra a quanto pare fra gli 80 e i 300 euro circa, a seconda del luogo in cui si vive. Sì, è così. E, da questo punto di vista la mini IMU è particolarmente insidiosa perché necessita di tutta una serie di verifiche preliminari perché, come è stato detto prima, non riguarda tutti i contribuenti e tutte le categorie di immobili, ma solo quei contribuenti che hanno determinate categorie di immobili in quei comuni che hanno adottato delle aliquote IMU superiori rispetto a quelle stabilite dalla legge statale. E quindi insomma dovremmo intanto documentarci presso il nostro comune di residenza per capire se la nostra amministrazione comunale ha varato questo aumento. Entro quanto avrebbe dovuto farlo, tra l'altro? Entro il, 30, entro il 30 di novembre, che poi è diventato il 9 di dicembre per il 2013, quindi il termine anche qui si è spostato in relazione all'approvazione del bilancio di previsione dei comuni. La prima verifica da fare è proprio andare a leggere il regolamento comunale che è disponibile sul sito dell'Ancitel, ma è anche disponibile sui siti web di tutti i comuni italiani. Tra l'altro abbiamo 9 giorni di tempo, perché oggi è il 13 gennaio, dobbiamo pagare entro il 24, c'è anche un weekend in mezzo, quindi per voi, come dire, un lavorone in questi giorni, no? Perché dovrete fare tutti i calcoli, non c'è niente di matematico che ce lo, come dire, indica, no? Con precisione quello che dobbiamo pagare. Ogni contribuente deve fare chiaramente il calcolo a sé. Esattamente, perché il calcolo è anche qui particolarmente complesso, perché bisogna in realtà calcolare sostanzialmente due IMU. Prima l'IMU applicata dal regolamento comunale con le eventuali detrazioni. Da questo importo bisogna sottrarre l'IMU calcolata con l'aliquota della legge statale, e da questa differenza, se positiva, bisogna calcolare il 40%, che è poi l'importo da versare. Altro che infiammati, Nicoletta. Quindi, cioè, questa mini IMU produce un super lavoro per voi. Sì, perché in realtà il lavoro preliminare di ricerca sul regolamento comunale è un lavoro da fare con particolare attenzione, perché i regolamenti comunali variano notevolmente da comune a comune. Mm-hmm. Allora, un ascoltatore, Giovanni, non diciamo i cognomi, stavo già partendo dal lavoro, se per quanto riguarda la mini IMU esiste una regola che tutti possono seguire per capire cosa e come fare? Qualche cosa l'abbiamo già detto, dottor Sironi, intanto documentarsi presso il proprio comune per capire se ha deliberato appunto l'aumento dell'aliquota, dopodiché si prende la propria rendita catastale della propria abitazione. Quante moltiplicazioni dobbiamo fare dopo di questa? Allora, la rendita catastale innanzitutto va rivalutata del 5%, poi moltiplicata per il coefficiente. A questo valore, che è la base imponibile IMU, si applica sul primo termine della sottrazione l'aliquota del regolamento, a cui si deve sottrarre poi la base imponibile IMU per l'aliquota erariale. Quindi, ecco, diciamo a Giovanni che è meglio che si faccia aiutare da qualcuno. Non è detto che debba andare dal commercialista, si può rivolgere a un centro di assistenza fiscale e magari leggere qualcosa sul Sole 24 Ore. E noi possiamo leggere anche il messaggio del nostro fante di picche, Marco da Ferrara. Sì, è un nostro grande fan. Insieme a voi due, naturalmente, perché non abbiamo ancora presentato il secondo ospite di oggi. Lo presenteremo tra poco, ma il fante di picche ci scrive: la mini IMU dovranno pagarla solo i mini uomini che hanno una mini casa, praticamente una tassa sugli hobby. Insomma, sì, tra l'altro, ecco, ci sarà qualche contribuente che invece dovrà versare una super mini IMU, dottor Sironi. Chi deve aspettarsi magari una brutta sorpresa per quello che riguarda questa scadenza? No, in linea di massima diciamo che le cifre dell'importo che lei ha detto tra i 90 e 300 euro sono quelle che sono apparse sulla stampa specializzata, sì, e sono stime attendibili. Non ci dovrebbero essere grosse sorprese da questo punto di vista per i titolari di abitazione principale e relative pertinenze. Eventualmente qualche sorpresa potrebbe esserci per chi ha dei fabbricati rurali ad uso strumentale che era stato escluso, però anche qui non parliamo di importi eccessivamente rilevanti. Allora, l'elenco dei comuni interessati a questo aumento appunto dell'aliquota 2400 è presente anche sul sito dell'ANCI, l'abbiamo detto prima, l'Associazione dei Comuni d'Italia, e lo trovate anche linkato sulla pagina di Facebook, perché stamattina l'abbiamo messo. Iniziate quindi a prenotare le vostre telefonate per fare le domande sulla mini IMU al nostro esperto. Noi cercheremo di rispondere a più ascoltatori possibile, e poi il dottor Sironi si ferma con noi ancora per una mezz'oretta fino alle 13, sì, dopo e selezionerà alcune delle telefonate che sono arrivate entro le 12:30, termine della nostra trasmissione, e quindi gli ascoltatori, alcuni di questi, verranno richiamati. 800 24 00 24. Intanto voi potete dirci come state vivendo. Deborah sottolineava l'incertezza di questi giorni. Noi sapevamo che sarebbe arrivata, ma speravamo che non arrivasse. Insomma, tutto questo clima ci stressa, ci logora, e non è solamente un modo di dire, perché le ricerche dimostrano che lo stress avvelena non solo i nostri pensieri ma anche la nostra salute. In studio qua con noi è tornato a trovarci il nostro dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno, anche se devo dire che, così, sentendo i calcoli prima, mi si è infiammato qualcosa. L'apparato nervoso sicuramente, con il sistema nervoso. Noi parleremo di un altro genere di infiammazione. Molti di noi borbottano, no? Quando devono pagare le tasse, si infiammano perché, no? Già solamente al pensiero di dover pagare altre tasse. Ma borbottare e infiammare sono due termini che a lei raccontano. Ci stanno perfettamente, anche perché vorrei fare riferimento ad una delle nostre grandi italiane, Rita Levi Montalcini, che ha preso il Nobel per la medicina nel 1986 per la scoperta di questa bellissima sostanza che si chiama NGF. Non è una tassa. Non è una tassa, per fortuna. Vabbè, così allora evitiamo tu, che la Rosciani faccia le sue canzoncine. Nicoletta porta gli ospiti simpatici, però anche il dottor Siro è simpatico nonostante i contenuti che porta. E quindi si chiama NGF. NGF, Nerve Growth Factor, vuol dire fattore di crescita nervosa, e questo fattore NGF, diciamo questa sostanza che è una citochina, in realtà aumenta l'istamina, che tutti la conosciamo per quando abbiamo il raffreddore, prendiamo gli antistaminici e così via, e aumenta l'infiammazione. Quando questa cosa salta fuori? Perché quando si innalza l'NGF l'organismo risponde con una specie di reazione esplosiva, e tutte le reazioni allergiche che poi sono connesse sono come per allontanare da sé. Pensiamo proprio all'orticaria, al prurito, alla rinite, alla tosse, all'asma, cioè tutte sostanze in cui uno butta lontano. E quindi secondo me su questa cosa, che è un tentativo di allontanare da sé, i politici dovrebbero riflettere quando impostano delle tasse di questo genere. Ma cosa significa esattamente pericolo? Perché è quello che la Montalcini ha definito in una bellissima lezione nel 2001 a Berlino, l'ultima volta che ho avuto l'onore di incontrarla, e aveva 93 anni, fantastica, devo dire, bellissima, e diceva: sono tradimenti, lutti, ma tasse, ci metto anche le tasse, non nella misura in cui uno deve pagare le tasse che conosce, ma nella misura in cui uno si trova con qualcosa di inaspettato, cioè quello che crea pericolo nell'organismo, questa sensazione di pericolo, è la situazione inaspettata. Qui siamo di fronte, sono seduto di fianco ad uno dei massimi esperti da questo punto di vista e credo che ancora abbia detto: sì, ci sono delle regole, però dobbiamo capire, vedere, eccetera, siamo a 10 giorni dal suo pagamento. Questo è inaspettato, questa tassa è ben più che inaspettata, quindi sicuramente molto più infiammata. E poi parleremo magari nel corso della trasmissione anche degli aspetti fisici. Certo, perché siamo stressati ma anche infiammati, non solo di rabbia, come lo stress anche le scelte, lo anticipavamo, del nostro stile di vita producono delle conseguenze, lo producono nel breve, nel medio, nel lungo periodo, alla fine paghiamo anche in questo caso, perché il nostro stile di vita ci presenta il conto che a volte può essere molto salato. E perché è salato? Perché progressivamente trasforma il nostro benessere in uno stato di malessere. Questa è in fondo la risposta che il nostro organismo dà alle sollecitazioni esterne negative. Se l'IMU ci infiamma di rabbia, le infezioni, l'inquinamento, lo stress, come abbiamo detto, ma anche la carenza di sonno, l'alimentazione scorretta e molto molto altro ancora di cui parleremo, sono altrettanti i fuochi, mi passi il termine, dottor Speciani, che scaldano la pentola del nostro organismo, trasformandola in una pentola a pressione, che non a caso è il titolo di un suo libro che ho proprio qua davanti a me, ne do una copia anche alla mia amica Deborina, come una pentola a pressione. Ma noi come facciamo a capire che da pentolini ci stiamo trasformando in pentole a pressione? Beh, crescono dei sintomi importanti e dobbiamo capire, anzi io direi che da qui facciamo partire uno dei test che oggi proponiamo ai nostri ascoltatori, nel senso che quando noi iniziamo ad avere la percezione di qualcosa che aumenta, io devo dire, la gente ha una profonda conoscenza della propria infiammazione. La gente dice: ma come stai? Ma sono un po' infiammato. E se pensiamo al fatto che i farmaci antinfiammatori siano i più venduti in assoluto nel mondo, sia per autoprescrizioni sia dal punto di vista medico, quindi la gente capisce questo dato. Allora, a me piacerebbe chiedere. Scusi dottor Speciani, la interrompo perché lei ha citato i farmaci e Stefano da Conegliano ci scrive: avete notato come in questi giorni in TV sono aumentati gli spot su farmaci antiacido? Effetto ICI, ci scrive, ma forse effetto anche minimo. Oh, ci sono sia quelli antiacido sia quelli antinfiammatori, sono pienissimi, sono assolutamente, abbiamo una diffusione a livello televisivo di comunicazioni potenti da questo punto di vista, ma proprio perché la gente se percepisce, vive questo stato di cose. Ora, a me piacerebbe chiedere alle persone, proprio rispetto a questo concetto della pentola a pressione, quali possono essere, se abbiamo capito fondamentalmente che cibo, stress, tasse possono aumentare questo livello di infiammazione, allora molti degli aspetti che correlano dei sintomi specifici alla infiammazione interna sono stati definiti, altri non sono ancora chiari. Mi piacerebbe sentire, visto che le persone mi possano dare, ci diano delle indicazioni su quello che loro percepiscono come sintomo correlato effettivamente all'infiammazione dell'organismo. Faccio due esempi, sì, però li togliamo questi due, perché adesso non vale che la gente chiami. Uno, ad esempio, è per capire, la frattura non può dipendere, uno si rompe una gamba, non può dipendere da un'infiammazione preesistente. resistente, ma ecco che ad esempio un eczema, una dermatosi seborroica di cui tanti si lamentano, una rinite, e questi non suggerire troppo, però è buona, sono elementi che possono essere correlati non solo ad una malattia che viene da qualche altra parte, ma ad un'infiammazione, questa crescita di borbottamento interno. Mi piacerebbe ricevere, quindi la domanda è: sintomi, disturbi ed eventualmente le cause che possono portare ad un progressivo aumento di infiammazione nell'organismo, e quindi poi diamo, secondo me, uno di questi libri lo diamo a chi dà la risposta più corretta. Fantastico, mi piace. 800 24 00 24. Deborah, abbiamo Gianni che ci chiama, sì, da Parma. Allora sentiamolo. Tra l'altro, dottor Sironi, prendendo a spunto il lavoro che ha fatto Attilio Speciani, ha fatto questo test di autovalutazione, l'ha proposto ai nostri ascoltatori, magari poi lo valutiamo anche con chi è interessato al tema della minimo e vediamo, sì, se riescono da, certo, soli a calcolare appunto questo, certo, questa incombenza. Sì, allora andiamo a Gianni. Avevi presentato Gianni. Gianni da Parma, all'800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno. L'ha fatta infiammare questa notizia, Gianni? No, spero di no, nel senso che adesso devo calcolare la mini IMU su un minimo periodo di acquisto, nel senso che abbiamo acquistato una prima abitazione ai primi del mese di ottobre dello scorso anno. Per cui volevamo capire se anche nel nostro caso non abbiamo pagato nulla fino ad ora, certo, ci sarà da pagare una differenza o qualcosa. Per la quota, diciamo, di competenza. Gianni, grazie. Dottor Sironi, allora in molti effettivamente, come dire, sono un po' caduti in questo equivoco. Siccome l'anno scorso non l'abbiamo pagata, nessuno di noi l'ha pagata, non l'ha pagata nessuno di coloro che ha un'abitazione principale, e allora chi ha acquistato la prima casa nel 2013 ritiene quest'anno di non dover nulla allo Stato, e invece non è così. Non è esattamente così, nel senso che in realtà non vorrei aggravare adesso lo stato di salute degli ascoltatori. Purtroppo lei stamattina ha questo ingrato, esatto. Non deve nulla se il comune in cui è stato acquistato l'immobile non prevede maggiorazioni di aliquote IMU per la prima casa rispetto all'aliquota standard dello 0,4 per 1000. Rispetto allo 0,4 per 1000, esattamente. Qualora invece l'aliquota comunale sia più alta, in questo caso la mini IMU è dovuta e dovrà essere anche parametrata rispetto al periodo di possesso. C'è però una soglia limite al di sotto della quale appunto il comune non pretende il versamento dell'IMU. Se Gianni non dovesse superare questa soglia, adesso non so, ammettendo che Parma abbia deliberato 12 euro 20 euro, lui per appunto abita in questa abitazione nuova dal ottobre dello scorso anno, magari appunto la quota che deve versare minima. Sì, può essere il caso. C'è questa soglia a livello erariale è di 12 euro a livello di imposta, quindi considerata come IMU complessiva. Evidentemente era data facoltà anche ai comuni nei regolamenti di stabilire delle quote di esclusione dal versamento per importi anche più alti, però diciamo che la soglia di 12 euro tendenzialmente è quella che va considerata per valutare se si è obbligati o meno al versamento. Segnalo che sul Sole 24 Ore di oggi, di lunedì 13 gennaio, ci sono le... Sì, non avevo visto. Fantastico! Avevo tanti articoli qua sopra, confondono un po' la nostra scrivania. Ci sono le 5 trappole in cui non cadere: la verifica dell'aliquota, le case assimilate, controlla i calcoli, la soglia minima appunto e come si versa. Poi li scandaglieremo uno ad uno. 800 24 00 24, e noi torniamo a parlare di infiammazione con il dottor Speciani, perché allora dobbiamo fare tutti questi calcoli che il nostro esperto ci insegnerà, o forse è meglio affidarsi a qualcuno che i calcoli li fa per mestiere, e poi avremo un risultato diverso per ogni causa, perché ogni casa è un caso, come è vero che ci conferma anche il dottor Speciani. Tra l'altro noi, questo è vero anche per le persone, ciascuno di noi è una capolavoro unico. Una pentolina diversa, diciamo. Una piccola pentola a pressione diversa. Tra l'altro noi siamo veramente maestri sulla diversità, perché leggevo che il DNA degli italiani è il più ricco d'Europa. Abbiamo un patrimonio genetico di tutto rispetto, 57 tipologie che si intrecciano. Se si può vederla così, cioè ci sono passati di mezzo tutti, ognuno ha lasciato traccia, come dire. E guardi, tutti noi qua, se vogliamo considerare le nostre origini, e guardi qua che belli che siamo. Siamo bellissimi, siamo fantastici. Belli ma un po' infiammati. Un po' infiammati, con il DNA un po' frammisto, possiamo dire. Ci sono degli ascoltatori che hanno risposto al vostro test. Allora, per esempio Ornella da Vicenza: dolore articolare, mal di testa, gonfiore, diarrea, infiammazione da glutine. Non so se ha già dato anche la sua diagnosi l'ascoltatrice, o se si chiede se tutti questi malesseri possono essere riconducibili a questo. Ecco, perché ne vedi che la nostra ascoltatrice Deborah ha dato diversi sintomi, perché noi abbiamo il meccanismo infiammatorio, dottor Speciani, è uno, però si declina, si manifesta questo, in modo differente. Questo tra l'altro è proprio uno studio anche recente che ha documentato, io la chiamo la teoria delle cinque dita, che così è visibile. Così a proposito di cinque. Sì, di cinque, così almeno rendiamo più semplice. Siamo tutti legati. E immagino il palmo della mano come la condizione infiammatoria, cioè non lo dico solo io, sennò sarei autoreferenziale, ma ci sono un po' di ricercatori per fortuna che lo dicono. E poi abbiamo le allergie, le forme degenerative tumorali, le malattie cardiovascolari, le forme depressive e il diabete e l'obesità, che in realtà oggi, secondo tutti gli studi, trovano nella parte infiammatoria una sorta di radice comune. Quindi è come se riportassimo una lettura non più divisa per malattie, ma molto più centrata sull'essere umano, sull'individuo, cioè su come tu sei effettivamente. Io trovo una bella progressione, anche perché poi siamo in grado di adattarci. Adesso la notizia dell'ANSA che prima Nicoletta comunicava sul mix di DNA, quindi delle capacità genetiche che abbiamo noi italiani, in realtà segnala che poi possiamo anche adattarci, perché è bellissimo ad esempio pensare che a livello equatoriale tutti mediamente il 98% delle persone ha una reattività al latte e al lattosio, mentre andando verso il nord Europa in soli 10.000 anni da quando è iniziata la pastorizia e l'allevamento, circa il 40-45% delle persone oggi tollerano il lattosio bene. Quindi abbiamo anche una bella capacità di adattamento, non solo una diversità fondamentale, ma siamo capaci di adattarci. È tempo di andare a sentire esatto. I mercati. Abbiamo qualche istante di pazienza. Maria Teresa da Bergamo, Vittorio da Milano, Marino dalla provincia di Venezia, tutti per voi, lo dico a Massimiliano Sironi e ad Attilio Speciani, e noi andiamo a sentire la borsina, cosa noi fa oggi. Ti sentiamo. Certo. Vedi. Eccoci qua. Cuore e denari. Come cavolo fai a calcolare l'IMU? Da due mesi quasi non ci dormo più. Meglio dici che a te non l'avrei pensato mai, ma con l'IMU sai ci vuole un certo instante. Ma noi abbiamo il dottor Sironi, dai. Certo. La minimu ci fa arrabbiare, ci infiamma. Oggi vi stiamo aiutando a capire se dovete pagarla e poi come fare a calcolarla, ma stiamo parlando anche più in generale di infiammazione qui a Cuore Denari. Voi continuate a raccontarci se vi sentite infiammati, basta così. E se pensate incavolati, si poteva dire tu eri già oltre. Ho saltato la barriera rosa. Certo. E saltatela anche voi all'800 24 00 24, e continuate se volete a farci le vostre domande sulla minimo. Dottor Sironi, tra l'altro un ascoltatore ci scrive al 349 238 6666, insieme anche a tutti gli altri che ci stanno chiamando: perché dobbiamo sempre arrovellarci per calcolare le tasse? Per esempio, non ci può il nostro comune, che ha deliberato l'aumento dell'aliquota, mandarci una cartella con l'importo? Ce la fanno pagare? Adesso mi rendo conto che magari per questo caso specifico non ci sono i tempi tecnici, ma generalmente non ci sono, ci devono far fare tutto da soli. Perché? Sì, in effetti c'è da auspicare che in un futuro, magari dopo che sarà stata fatta la revisione del catasto, sia possibile che direttamente il comune comunichi al contribuente quanto deve pagare di IMU. Per l'IMU in realtà, come era fino al 2013 e come rimarrà anche per gli aspetti che rimarranno nel 2014, questo non è possibile, perché è molto articolata e prevede tantissime casistiche. Certo, c'è anche tutto il tema delle cosiddette assimilazioni, le pertinenze, sì. Quindi garage, cantine e poi tutte le altre situazioni in cui c'è la, come dire, confusione fra prima e seconda casa, l'assimilazione alla prima, che poi appunto magari affronteremo. Chi vorresti sentire, Nicoletta? Allora, io vorrei sentire, darei la precedenza a Maria Teresa, che ci chiama da Bergamo. Certo. Buongiorno Maria Teresa, benvenuta. Pronto, buongiorno, buon anno a tutti. Grazie. E complimenti alle due fate turchine per la trasmissione. Wow. Sono la vostra fedelissima. Guardi, Maria Teresa, ho ricevuto Essere Benessere come una pentola a pressione. Dunque, io purtroppo sono una campionessa di infiammazione, mio malgrado, nel senso che a causa di una celiachia tardivamente diagnosticata, mi ritrovo con un colon irritabile che mi dà dei gonfiori pazzeschi, soprattutto dopo il pranzo, e dei dolori pazzeschi, perché l'aria mi crea dei problemi non indifferenti, di dolore, di mal di pancia. Poi una nevralgia del trigemino che mi crea dei bruciori, dei dolori forti. Sì, che testa. È un dolore terribile, mamma mia, il trigemino, vero dottor Speciani? Alla testa, alla faccia, cioè sì. Da non poter parlare, masticare. E poi una sospetta neuropatia a livello della pelle, dell'epidermide. Sì. Lo strato della pelle, ecco, del derma, del grazie derma. Maria Teresa, lei ha raccontato tutta questa allora l'ascoltatore potrebbe dire certo che no, quante ne ha, ma in realtà il dottor Speciani più volte ci ha spiegato che una cosa chiama l'altra. Sembra banalizzarlo dare questa spiegazione, ma in realtà è vero, quando c'è l'infiammazione escono, no? Dei segnali proprio... che sono tra loro collegati. L'immagine del libro come una pentola a pressione è proprio quello. L'ho presa direttamente dal fatto che le persone mi raccontavano e mi raccontano tuttora situazioni di questo tipo. Ma noi immaginiamo una pentola che sta surriscaldando con il suo valvolino che inizia a sparare e fa il suo rumore, no? Se noi quello lo chiudiamo, oppure con un sintomatico, qualcosa, dopo, senza abbassare il fuoco, questo succede che la pentola ne apre altri due, altri valvoli di sfogo. Ed è un po' l'immagine con cui questa Maria Teresa si sta presentando, proprio confermando, tra l'altro in realtà la persona che prima ha chiamato ha dato delle indicazioni, ma vedo che anche questa ha risposto praticamente al test di autovalutazione in modo preciso, cioè caratterizzando una somma di elementi vari che sono in realtà tutti correlati con uno stato di irritazione interna. Posso tranquillizzare su due aspetti, che una volta che è chiarito una causa scatenante, è un po' quello che a volte succede quando si fa una diagnosi di celiachia, è che si crede che sia solo questo aspetto e invece magari stiamo mangiando anche una serie di altri elementi che meritano semplicemente una maggiore varietà. Vorrei tranquillizzare tutti: le ipersensibilità alimentari, le reazioni al cibo guariscono con una formazione di nuovo nutrizionale che ridia varietà rispetto della stagione, che dia magari talvolta un aiuto di tipo enzimatico, forse per Maria Teresa, magari l'apporto di alcuni probiotici, cosiddetti fermenti lattici, anche se sono diversità, cioè rimettere a posto l'intestino, che è il punto focale della nostra storia. Certo. Poi però dirò qualcosa sulla nevralgia trigeminale, che fa venire certi mal di testa come il calcolo l'IMU. Della mini-IMU, questo sì, senza ombra di dubbio. Quindi dall'infiammazione ma noi può guarire. Possiamo guarire dall'infiammazione, ma se il nostro dottor Sironi ci insegnerà a uscire un po' da queste incertezze, soprattutto certo. A evitare errori, trappoli, inciampi. Dottor Speciani, noi possiamo dare qualche indicazione generale per le persone che si sentono in qualche modo infiammate perché avvertono una strana sensazione di malessere, se le sentono un po' addosso tutte, che vanno un po' dal mal di testa, alla stanchezza, alla difficoltà di digerire, all'irritabilità e vogliono magari approfittare della nostra trasmissione per prendere il passo e dire bene, inizio... Provo così. Guarda, intanto viene bene perché siamo nel post Natale, dove quindi tutti stiamo cercando anche di ricapire come riposizionare la propria forma fisica in modo adeguato. Però già uno spunto che è presente in tutte le tradizioni religiose, che è quello di fare un giorno alla settimana di controllo alimentare, comunque si è visto, poi ogni religione ha dato i propri significati teologici, però è uno strumento in cui se uno confrontasse davvero quello che sta mangiando e dicesse, ma io cosa mangio sempre tutti i giorni? Oh là! Un giorno in cui mangio qualcosa di diverso, in cui mangio più frutta e verdura, in cui evito di mangiare pane, latte, formaggi, eccetera, magari mangio altre sostanze, ci sono mucchi di sostanze alternative. Ecco, questo già è un input importante, perché ognuno può iniziare a rendersi conto, soprattutto serve per un'autoconsapevolezza di che cosa? Che tante volte senza rendercene conto mangiamo sempre le stesse cose e non ci rendiamo conto che questo è quel fuochetto sotto che mantiene alto il livello della pressione. E di solito sono proprio i prodotti che mettiamo per primi in automatico nel nostro carrello della spesa, sono quelle lì che cadiamo, no? Sì, do un'altra lettura. Mediamente noi mitteleuropei italiani, diciamo, siamo reattivi a latte, frumento e lievito, i giapponesi al riso alla soia. Sono anche i cibi che continuiamo a mangiare per tradizione, tipici per cultura, della sempre. Nostra dieta, per esempio quella mediterranea, che non sono cattivi, mediamente, dottor Speciani, sono quelli che ci piacciono di più. Sì, ma sono anche buoni, santo cielo, no? Abbiamo imparato ad adattarci. A volte però il fatto di riuscire a dare un minimo di diversità all'organismo, un po' di varietà, può essere utile. E invece, se si può guarire dalle infiammazioni alimentari, non si può guarire dall'IMU, perché ce l'eravamo tolta di torno l'anno scorso e invece è ritornata, quindi ci siamo riammalati appunto di questa scadenza. Allora sentiamo il dottor Sironi, però è contento, certo. È soldigna, perché lui le sa tutte sull'infiammazione alimentare e sulla mini IMU. Adesso lui deve deve stare lì a studiare questa scadenza. Allora sentiamo un po' Vittorio da Milano se lo possiamo accontentare all'800 24 00 24. Tra l'altro poi volevo anche interrogare il dottor Sironi sul fatto che adesso, a parte che il comune non ci manda l'importo, ma quantomeno un'informazione di massima, perché qua noi, se non fossimo stati attenti, a parte al Sole 24 Ore, ai quotidiani e al telegiornale, non avremmo saputo appunto se pagarla o meno. Un mio amico è tornato ieri sera dall'Australia e durante la conversazione sul racconto di questo viaggio strepitoso, io gliel'ho piazzata là: ricordati che devi pagarlo, gli ho comprato casa l'anno scorso. Mi guarda, ma come sarebbe a dire? E quindi insomma, attenzione anche ad informarci. È caduto l'ascoltatore? Sì, è caduto, ma noi abbiamo Marino dalla provincia di Venezia, speriamo. Marino lì? Marino? Sì, sì, buongiorno. Buongiorno. Marino, lei è una garanzia, vede? Lei è lì, è pronto? Eccolo là. Che ci dice? Pronto, sì, sono pronto anche a non farmi assalire da quegli attacchi gastrici per il problema appunto dell'IMU. Sì, è un problema che spaventa tutti, pensavamo di avercelo tolto dalle scatole l'anno scorso grazie ai politici, però ahimè ci hanno un po' tradito. Adesso le code per andarsi a informare in comune, il panico, eccetera. Ci sarebbe un sistema per sollevare e, secondo me, alleviare quello che potrebbe essere il problema degli ascoltatori. Allora, consigliamo alle persone che tasso di interesse vanno a pagare se ritardano il pagamento di queste cose. E un'altra cosa, i succhi gastrici, se li ritardiamo, abbiamo un anno di tempo e paghiamo una fesseria, li facciamo venire al governo se ci mettiamo d'accordo. Una protesta dei contribuenti, adesso non mi viene il termine, c'è proprio un termine che indica quando tutti ci si mette insieme, appunto, una protesta di questo tipo. In ogni caso, allora, se ammettendo che qualcuno è veramente all'estero, dottor Sironi, il suo commercialista non ha raggiunto, non ha saputo di questa scadenza e ritorna in Italia il 28 gennaio, appunto, e sa che viene a scoprire che entro il 24 doveva versare appunto questa imposta, c'è il ravvedimento che si può fare, quanto costa? Allora, in questo caso, nel caso che lei ha prospettato, c'è il ravvedimento cosiddetto sprint, che è un fino al 15° giorno successivo rispetto alla scadenza, quindi calcolando dal 24 di gennaio si può versare lo 0,2% di sanzione e l'1% di interesse su anno, quindi in realtà l'interesse è molto, è molto microscopico, quindi in realtà il ravvedimento in questo caso costerebbe poco. Ci sono poi altre possibilità di ravvedimento, evidentemente sono più care, cioè man mano che si va in là col tempo per regolarizzare la propria posizione aumenta il peso della sanzione, l'interesse rimane sempre dell'1%, ma la sanzione evidentemente aumenta. Certo, e quindi lui Vittorio dice, insomma, se lo facessimo tutti insieme, così almeno si svegliano, un'altra volta ci danno, come dire, queste imposte, ce le propongono in maniera chiara, perché poi tutto sommato gli italiani sono dei contribuenti anche molto corretti, sanno bene che le tasse vanno pagate, perché i comuni ci garantiscono certi servizi, però anche lì poi non voglio immaginare cosa succederà con la TASI, Sironi. Sì, se poi dopo volete ne parliamo un attimo, perché... Sì, lei realtà... potrebbe venire a vivere qua, cuore denari, insieme al dottor Speciani, ragazzi, perché dobbiamo pagare appunto i lampioni, i servizi, le fognature e tutt'altro. Posso leggere? No, non tanto. Sì, dai. Allora, Francesco da Verona ci scrive: mi dite se la mini IMU c'è anche il bonus dei figli e non c'entra niente con quello fatto da Monti? La detrazione c'è. Allora, la detrazione c'è, nel senso che se ne tiene conto per calcolare la mini IMU. Quindi per il 2013 la detrazione c'è ancora. Probabilmente l'ascoltatore si riferisce al fatto che nel 2014 non ci sarà più la detrazione per i figli, la maggiore detrazione di 50 euro per i figli fino a 26 anni, però per il 2013, quindi per la mini IMU c'è ancora. C'è. Adesso ci sono anche le informazioni sul traffico, per cui andiamo a sentirle. Intanto vi ricordo 800 24 00 24, infiammazione a tutto tondo se la mini IMU vi fa arrabbiare, o se invece il malessere che avvertite, un malessere diffuso, un po' generalizzato, vi sospettisce, vi sta trasformando in pentola a pressione. Noi siamo qui per darvi indicazioni e soprattutto, ancora prima, spiegazioni. Cuore e denari. E bentornati a Cuore e Denari, stiamo parlando di tasse ed infiammazione. A volte le due cose coincidono e continuate a telefonarci, a scriverci. Noi stiamo naturalmente continuando a spegnere le nostre e le vostre infiammazioni di cuore e di denari. E vi ricordiamo che tra le telefonate che arriveranno entro le 12.30 a Cuore e Denari, a 800 24 00 24, il dottor Sironi ne sceglierà alcune a cui darà una risposta privata e diretta. Intanto andrei a Marco che ci chiama dalla provincia di Sondrio. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Marco, buongiorno. Pronto, buongiorno, mi sentite? Sì, sì, sì. Forte e chiaro. Aspettili un attimo che le facciamo sentire una cosa. Essere e benessere. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. Marco, si sente un po' infuocato? Infiammato? Sì, direi di sì. Il motivo per cui vi ho chiamato è una un'infiammazione che più che lo stomaco interessa una parte più vicina alla bocca, parlo della gola. Ed è una cosa di cui soffro ogni anno più volte, soprattutto nel periodo invernale. Però ho maturato proprio l'idea che al di là di quelle che possono essere delle cause derivanti dalla stagione, ci sia proprio anche una causa che deriva proprio da un malessere che penso proprio derivi dal fatto tante volte dell'impossibilità, certo, di non poter esprimere le proprie idee o comunque per quello che anche chiamo tra virgolette il quieto vivere e cercare di mandare giù. Mandare giù. Quindi parliamo sempre di bocca e diciamo di questa cosa che da una parte appunto ci fa entrare delle cose, dall'altra non ci permette di farle uscire. Marco ha dato una lettura psicosomatica del suo disturbo e ci ha anche sottolineato un altro aspetto, che tante volte il nostro tallone d'Achille ci racconta tante cose del nostro modo di vivere ma anche di affrontare la vita. Dottor Speciani. Ah, bellissimo questa cosa, tra l'altro il senso della zona della gola che corrisponde, per chi fa yoga, fa parte della pratica quotidiana, ad esempio, riconoscere proprio lì la possibilità di espressione. E poi mi viene in mente in questi giorni c'è in forte la pubblicità dell'ultimo film di Virzì, ma a me piace pensare ad uno precedente che si chiamava, uno dei primi suoi, che si chiamava Ovo Sodo, che era, io ricordo, sono andato a vederlo con un'amica americana che mi disse: ma cosa vuol dire Ovo Sodo? Io ho detto: hai presente l'Ovo Sodo quando, perché era, quando rimane lì. No? E quindi non puoi esprimere, non puoi dire, era il titolo. Adesso mentre lo parla, mentre lo diceva, mi veniva in mente proprio questo senso di impedimento all'espressione, e che ha però davvero, poi può essere in parte un'azione di reflusso, una parte di acidità, una parte di infiammazione preesistente, più ci si mette magari il vento e il freddo ed ecco che uno sente questo mal di gola e magari andando a correre sfogandosi riuscirebbe a risolverlo. E Marco ha sottolineato che questo è un po' il suo disturbo ricorrente e ha legato in qualche modo all'infiammazione. Ma dottor Speciani, il dottor Sironi ha tutte delle tabelle, dei calcoli, ci rimanda ai siti, insomma la minimo, anche se difficile, si riesce a calcolare con precisione. Dottor Sironi, lei me lo conferma? Sì, glielo confermo. Mentre noi possiamo, oltre a pensare, a ipotizzare di essere un po' infiammati, possiamo veramente provarlo? Ci sono degli esami che mi fanno capire che insomma il mio stile di vita mi ha in qualche modo, posso usare la parola intossicato oltre che infiammato, insomma, sì, ha sregolato un po' alcuni meccanismi che sono quelli che regolano nostro benessere? Posso rispondere con un complimento, Radio 24 è sempre avanti e sta dando delle indicazioni, delle informazioni. Doveva essere un po' più preciso sulla trasmissione di Radio 24, però essere, ci passeremo sopra. Essere e benessere in Radio 24 è sempre avanti e la partecipazione di queste due fatine, come le hanno chiamate prima, devo dire è positiva. Perché? Perché oggi ad esempio è molto diffuso il concetto di automisura, di self-measurement, è uno dei temi importanti che sta sviluppandosi a livello sociale e sociologico in maniera estremamente diffusa, proprio perché le persone vogliono leggere quello che sta avvenendo nel loro organismo. Il tema però non è solo di avere degli esami, ma di renderli fruibili, cioè di renderli comprensibili. Ad esempio noi stiamo lavorando attualmente in Gran Bretagna, a Londra, e nel volgere di qualche settimana in Italia, presentando, e poi negli altri paesi europei, presentando proprio delle modalità in cui possa essere sondato anche dal singolo paziente una valutazione sia del profilo alimentare sia anche delle citochine infiammatorie, che sono le sostanze che creano infiammazione e che crescono nell'organismo. Tutti però, per esempio, possono farsi una VES, una proteina C reattiva, una valutazione delle proteine per capire se assorbono, cioè cito gli elementi più semplici che sono presenti anche nei classici esami del sangue, che a volte restano senza risposte. Perché? Perché la medicina oggi è molto portata a definire delle malattie e non quel palmo della mano delle cinque dita di cui dicevamo prima. In realtà è secondo me in atto un cambiamento forte dal punto di vista della percezione del disagio, che non è solo l'identificazione della singola malattia per cui prendere un sintomatico che fermi lì, perché questo arriva a chiudere la piccola valvola della pentola a pressione. In realtà, se riusciamo a leggere anche questi esami come una condizione di tipo infiammatorio, certo, identifichiamo la condizione di disturbo che ci consente una vera prevenzione, perché poi certo, il problema non è inventarci delle malattie ulteriori, ma ed di capire, evitarle, esatto, di poterci mettere dentro un'azione positiva. E allora 800 24 00 24, se volete continuare a descriverci i vostri malesseri, fate ancora una sorta di autovalutazione. Noi questa mattina la valuteremo insieme al dottor Attilio Speciani per capire se questi malesseri sono potenzialmente riconducibili ad una condizione di infiammazione. E non dipendono solo dalla minimo. Dalla minimo, che comunque un po' ci ha infiammato, ci stiamo scherzando su questo dall'inizio della trasmissione. E allora prenderei altri ascoltatori. Tra l'altro, una curiosità, dottor Sironi, che mi sono già tolta prima dell'inizio della trasmissione, ma magari la spieghiamo anche ai nostri ascoltatori. Allora, aliquota standard 0,40 per mille. Il nostro comune è aumentato da 0,60, su quella differenza noi dobbiamo pagare appunto questa minimo, che è del 40% rispetto alla cifra complessiva appunto che riusciamo a calcolare. Questo significa che a giugno avremo un saldo? No. No, a giugno non avremo nessun saldo. Un altro mese, insomma. Non avremo nessun saldo ulteriore, tant'è vero che la legge di stabilità nel 2014 esclude to cure, modificando la disciplina originaria IMU, esclude le abitazioni principali non di lusso, quindi diverse dagli A1 agli A8 agli A9 come categoria catastale. Quindi la mini IMU inizia, se mi consentite il termine, e finisce il 24 di gennaio. Non ne sentiremo più parlare di mini IMU così come la conosciamo. Non sospirare tanto, perché lo sai che arriverà chiamata con altri nomi, e appunto c'è tutto l'inghippo della TASI, lo IUC, e dobbiamo rifare un'altra volta la poesia. Brava. Non credo che sia il caso. Magari la facciamo nella seconda parte del programma. Vi aspettiamo. E allora tra poco. Cuore e denari. Pancia, misurati la pancia, fammela vedere, scopriti la pancia. Una collina sotto il cielo, non è vero che sei sola, non è vero, la pancia. Allora, abbiamo capito, ma già lo sapevamo, che cibo, stress, tasse possono aumentare l'infiammazione. Continuate a seguirci, continuate a scriverci i segnali che vi fanno dire, beh, qualche cosa non sta andando. Dal benessere sono passata al malessere, ed è questo che noi vogliamo cercare di prevenire. Cioè, noi vogliamo tornare a stare bene o capire se qualche cosa in noi è stato sregolato, magari da uno stile di vita non adeguato oppure dallo stress, e quindi ci fa incamminare verso uno stato di malessere. Giochiamo come sempre sulla prevenzione. Oggi in studio con noi il dottor Speciani, mentre il dottor Sironi parlerà di un altro tipo di infiammazione, esatto, quello che produce quell'orticarietta che ci ha provocato quel prurito che ci ha provocato appunto questa scadenza imminente, quella del 24 gennaio, data entro la quale tutti i proprietari di abitazione principale che l'anno scorso non avevano versato appunto devono invece versare la mini IMU. E ci sono tanti quesiti che ci stanno ponendo i nostri ascoltatori, ai quali naturalmente daremo tra poco risposte, e continueremo a farlo anche a puntata finita ufficiale, quella che va in onda a fuoco air, spento a fuoco dire. Ma pensa come ti è venuta, sì. Dottor Speciani, ma noi abbiamo parlato di fuoco, possiamo spegnerlo, buttiamo dell'acqua? Assolutamente sì, anzi direi che l'acqua fa parte di una delle possibilità naturali più importanti. E tra l'altro l'acqua è anche un segno, perché sovente le persone arrivano con il trattenimento di liquidi, sì, di cui non si accorgono, ed è perché l'organismo sta buttando liquidi su zone infiammate per cercare di diluire la concentrazione dell'infiammazione. Oggi, col fatto che si possa iniziare a misurare anche il livello di infiammazione, che è quello che, ripeto, nelle prossime settimane andremo a fare, anche proponendo delle situazioni di lettura di alcune particolari citochine, il BAF, il PAF, sono le sostanze. BAF e PAF sono molto da cuore denari. Bello, poi sembrano degli schiaffoni, come suono. Quindi. Dottor Tironi, piacciono anche lei questi BAF? Sì, sono molto da commercialista. Poi ultimamente si usano molto gli acronimi in diritto tributario. Ha sentito noi, abbiamo fatto anche le poesie. Quando abbiamo cercato delle sostanze, delle citochine infiammatorie, abbiamo cercato di trovarle con delle iniziali che non ricordassero delle tasse, perché sennò sono tristissime. Ed è vero che leggere questi dati consente poi alle persone anche di seguirsi in un andamento di recupero, di riequilibrio, anche se i segni clinici quindi sono le cose più importanti. Io lo dico spessissimo, l'anello che si muove, uno vale per gli sposati ovviamente, no? Certo. Anche quelli che portano gli anelli in altre dita, va bene, d'accordo, però palesemente... Perché sennò il messaggio è, se la vera sta stretta, e potrebbe suonare tutto sotto un altro profilo. Diciamo che il fatto che gli anelli ballino, si muovano con facilità, è un segno di non presenza di infiltrazione liquida. Ed è uno dei primi segni, la gente risponde quando inizia a cambiare un po' l'alimentazione, a dire, caspita, ma mi sono asciugata, posso mettere... le scarpine con i laccetti senza avere le dita a forma di salsiccia, sento gli anelli che ballano, la pancia meno gonfia, sono i segnali che poi peraltro sono quelli anche più simpatici su cui le persone riescono a rendersi conto che migliorando questo quadro, come dire, all'esterno, in realtà sta migliorando anche il di dentro, e quindi migliorano. Quindi aggiungere acqua? Acqua da bere, abbiamo detto. Cambiare un po' alimentazione, almeno un giorno alla settimana. Trovare questo elemento, si può approfondire con dei test di valutazione, di un profilo individuale alimentare, però l'elemento fondamentale è proprio quello del riniziare a pensare che c'è una varietà nell'alimentazione. Il corpo, l'organismo risponde alla continuità alimentare con la produzione ad esempio di anticorpi. C'è proprio uno studio recentissimo che spiega che l'aumento di alcuni anticorpi, in particolare le IgG nell'organismo, è legato alla continuità, alla ripetizione di alcuni tipi di alimento che utilizziamo. Ma quello che dicevo prima, cioè che fondamentalmente i giapponesi patiscono sulla soia e sul riso, certo, gli italiani sul latte, frumento e lievito. Dobbiamo fare un po' di cambi. Esatto, non c'è niente di tanto vario quanto il panorama fiscale italiano. Esatto. Dottor Speciani lo sa bene, lo sa molto meglio il nostro Massimiliano Sironi, al quale stiamo girando le domande dei nostri ascoltatori, spulciando tra gli sms degli amici che ci stanno scrivendo al 349-238-6666. Abbiamo pescato anche un caso di un'ascoltatrice, Alessandra. Dottor Sironi, mi ha detto, questo è veramente un caso che anche nel mondo dei commercialisti e degli esperti fiscali non è mai stato preso in considerazione, ma perché ognuno chiaramente nella propria vita fa scelte diverse, può cambiare casa anche 4 volte nel corso dell'anno, e quindi qui a seconda dei mesi che ha vissuto in una casa appunto principale, un'abitazione principale, può pagare adesso questo versamento. Allora, l'anno di riferimento intanto per l'F24, chiede Alessandra, dottor Sironi, è il 2013 o 2014? L'anno di riferimento metto sull'F24 è 2013. Punto. Allora, io ho abitato, sintetizzo perché è un po' confuso il messaggio, in una prima abitazione per 9 mesi, che poi è diventata seconda casa, e chiaramente per il periodo corretto ho pagato l'IMU a dicembre, perché in quel mese appunto i proprietari di una seconda casa hanno dovuto pagare. Quindi per i 9 mesi in cui ho abitato in quella stessa casa come prima casa, devo versare la mini IMU? La risposta probabilmente è sì, sulla base dei principi, certo, nonostante il caso specifico non sia normato. Bisogna vedere il comune intanto. Bisogna vedere il comune e il tipo di immobile, direi che era un'abitazione principale, certo, quindi ci siamo. La risposta è sì, perché in realtà la mini IMU, a differenza, probabilmente l'ascoltatore ha in mente la scansione prima rata, seconda, certo, rata tipica dell'IMU, la mini IMU in realtà va a coprire entrambe in qualche misura. Poi il discorso tecnico è un po' più complesso, perché ci si è imbattuti nel corso del tempo in un paio di proroghe, quindi esclusioni, proroghe a tempo. Originariamente la mini IMU poi doveva essere pagata il 16 di gennaio, poi è stata prorogata, ma in sintesi diciamo che per questi 9 mesi la minimu va corrisposta. Certo che data la complicazione potevano sprecarsi anche un po' di più con la proroga 24 gennaio, metti al 20 febbraio, almeno ci danno un po' più di tempo per calcolarla. Perché il 20 ti è venuto in mente? Chissà. Così, non lo so, succederà qualcosa, sarà il destino. Chi vuoi sentire? Albino, che scrive, la minimu va compilata sull'F24 semplificato che si può estrarre dal sito agenzieentrate.it o anche sul vecchio F24 dell'IMU? Per esempio pagando con il conto corrente online, dottor Sironi. Ritengo che da questo punto di vista non ci siano preclusioni, per cui si possa usare sia l'F24 semplificato che quello ordinario e anche il bollettino, cosiddetto bollettino IMU, quello di conto. Insomma, basta pagarla. Basta pagarla. Arrivano i soldi e i comuni sono tutti contenti, non andranno a fare le pulce alla modalità che abbiamo utilizzato. Brunellina, sentiamo. Brunella da Modena, buongiorno. Brunella, si è distratta? No. Allora, sento bene. Ci dica allora. Volevo solo un'informazione in merito alle detrazioni dei figli. Sì. Mio figlio, che ha una prima casa, è diventato papà il 25 settembre 2013. Mm-hmm. Per la deduzione appunto del figlio a carico, devo fare la divisione per i mesi e la moltiplicazione per ottobre, novembre, dicembre? I 50 euro che aspettano. Sì, grazie Brunella. Ecco, grazie a lei. Ecco, la detrazione del figlio, che deve essere di età non superiore ai 26 anni, quindi inferiore ai 26 anni, spetta se però il figlio vive nell'abitazione con i genitori, evidentemente. In questo caso... No, parla del bambino di suo figlio, che è nato, che è nato a settembre. No, che è nato a settembre, e lei dice, insomma, siccome è nato a settembre del 2013, questi 50 euro devono essere spalmati su tutto l'anno? No, sono 50 euro di detrazione, punto. Sono 50 euro fissi. Dottor Speciani, però certo che è complicato fare il commercialista, eh? È però... contento di fare il medico? Molto. Pensi noi che facciamo le conduttrici radiofoniche. Andiamo a Gianni, che ci chiama dalla provincia di Lecce. Buongiorno Gianni. Salve, buongiorno, auguri a tutti. Anche a lei. Anche con, secondo un po' di ritardo. Ora, io soffro di colite ulcerosa da molti anni, dal 68 in pratica, e questa colite si è manifestata in maniera silente solamente nell'86, al seguito di un cambio di alimentazione, e sono cominciate delle emorragie fortissime che mi hanno costretto al ricovero e a 7 trasfusioni in una settimana, proprio perché era una cosa molto acuta. Molto acuta. Sì Gianni, e venendo ad oggi? Venendo ad oggi, adesso in un periodo di tregua, diciamo, ma il discorso è che a me è restato un'infinità di problemi da un punto di vista cutaneo, cioè di squamazioni, ma soprattutto una congiuntivite che fa parte dell'infiammazione di tutte le mucose, una congiuntivite, una blefarite. Ecco, ritorniamo Gianni all'esame alle 5 dita, no? Torniamo al palmo e alle 5 dita. Non solo, nel caso specifico di Gianni, quello che emerge, e che l'ha descritto molto bene, è che quando una valvola è diventata molto forte, tanto da essere identificata come malattia, e in cui è stato trattato, tant'è che oggi, dopo 20 anni di trattamento, comunque diciamo ha contenuto la situazione, il rischio è proprio che si chiuda quella valvolona e in realtà tante valvolette di fianco in realtà non vengano controllate, cioè non si va ad intervenire sulla parte di riduzione dell'infiammazione. Perché il fuoco cova sotto la cenere. Devo dire, in particolare, qui mi fa piacere segnalare anche un dato proprio relativo al tipo di patologie che discute già anni, che diversifica moltissimo l'Italia dagli altri paesi del mondo. Io lavoro anche a Londra, ma nel nord Europa ci sono tutti i centri di gastroenterologia che ritengono sicuramente importante l'utilizzo di un certo tipo di impostazione dietetica nella disturbi legati alle malattie infiammatorie intestinali. Di cui la colite ulcerosa fa parte. In Italia questa cosa è tendenzialmente negata. Questo non sto dicendo se è giusto uno o giusto l'altro, dico che rimane un po' difficile da spiegare ai pazienti che te lo chiedono quando hanno un problema, un disturbo che riguarda il proprio intestino, che dico cosa devo mangiare, e quando gli dici le librette italiane dicono che non cambia nulla a seconda di quello che mangi, restano un po' perplessi. Io dico che hanno ragione a rimanere perplessi, cioè sono abituato alla visione internazionale che tende a considerare anche l'alimentazione uno dei cofattori di queste malattie. E torniamo ad una situazione in cui, soprattutto in una malattia importante e grave, quando una persona riesce a riavere in mano delle redini parziali, per carità, però in cui sente che può, come dire, ridare una direzione alla propria storia clinica, è un self-empowerment. È una nuova vitalità, perché è un aiuto, se lo stile alimentare può farci ammalare, lo stile alimentare può anche farci guarire. Metto tutte per il guarire e l'ammalare metto le virgolette, ma questo è un po' il messaggio. Debora, allora, ancora un paio di casi un po' al limite per il dottor Sironi. Allora, allora Susanna chiede se deve pagare abitando a Padova. Io ho l'elenco dei comuni capoluogo con un'aliquota deliberata superiore a quella statale, appunto pubblicata stamattina sul Sole 24 ore. Padova non la vedo, spero di non sbagliarmi, non so se ha aumentato appunto l'aliquota portandola al livello massimo consentita dalla legge. Quindi perché Susanna, però, dottor Sironi non li sa, è poveretto, ma lui conosce 2400 comuni, no, purtroppo no, guardi, no. Però anche lei qualche volta venga un po' più preparata. No, un altro caso limite che mi stuzzicava, ce lo segnala un ascoltatore, Sergio, su Facebook. Ma è possibile pagare la mini IMU più dell'IMU complessiva se si pagasse a regime normale? Lui ha fatto appunto il calcolo, quindi ha fatto il calcolo dell'IMU calcolata con aliquota al 4 per 1000, quella al 6 per 1000, sulla differenza bisogna pagare il 40%, com'è possibile che questa quota gli venga più alta dell'IMU stessa? No, in realtà non dovrebbe essere possibile, perché ha sbagliato qualcosa. Sergio, come ha fatto il calcolo? È così facile, d'altronde, perché si è sbagliato? Non si capisce. Non dovrebbe essere possibile perché nel caso specifico si potrebbe anche fare una verifica, cioè a parità di detrazioni e quant'altro. Una verifica dopo aver fatto il calcolo analitico potrebbe essere: prendo nel caso specifico lo 0,2 per 1000, lo moltiplico per il valore IMU, applico il 40% e quello è l'importo che devo avere. È poco il di meno, poco al di sotto della metà, per cui è proprio impossibile. Andiamo a Bologna, che c'è Giovanni. E come ci sembra impossibile che un bel piatto di spaghetti ci infiammi, invece altro che dottor Speciale. No, ma non ci infiamma un piatto di spaghetti, ci infiamma. Se lo mangiamo sempre sistematicamente solo spaghetti tutti i santi giorni, sempre, senza avere la varietà che ci dà la ricchezza di questa terra. Abbiamo un DNA meraviglioso, sfruttiamolo, che sia tutto mito, e sfruttiamolo, santo cielo. Giovanni, lei non mangia pasta tutti i giorni, magari anche qualche bel piatto di tortellini da Bologna? Sì. Vedi. Sono in linea? Sì. Sì. Butti qualche volta, soprattutto durante le feste appena passate. Ecco. Vabbè, lì un po' tutti abbiamo peccato, Giovanni, però sono giustificati questi peccatucci, ci dica. Sì. Ecco, volevo portarvi un caso molto specifico. Io mi è arrivata una cartella sull'IMU del 2007 in cui mi si dice che ho pagato meno 180 euro. Adesso farò ricorso perché c'è insomma c'è un errore di fondo. Comunque la sanzione è di 20 euro per mancato pagamento di 180, quindi io vorrei tranquillizzare tutti quanti. Adesso non vorrei invitare le persone a non pagare alla disobbedienza. Alla disobbedienza, vede, non mi veniva prima, mi veniva in mente obiezione fiscale, ma vabbè. Ecco, l'obiezione fiscale, sì, se ci sono queste quote, vi faccio un altro esempio qui. Se uno vi trova nell'autobus senza biglietto si paga 150 volte il biglietto come massimo. Ecco, quindi quello non lo so, Giovanni, è meglio pagarlo. Ecco. Allora, il nostro Stato, basti sentire le battaglie che fa Oscar Giannino da questi microfoni, ha tanti problemi, no, Sironi? Anche lei penso che tutti i giorni si confronti con queste anche un po' incongruenze. Qualcuno addirittura si sente giustificato nel non pagare un tributo appunto dovuto, perché comunque lo Stato va avanti e con le tasse pagate in realtà lo Stato garantisce tanti servizi. Funzionano, non funzionano, non lo so, però addirittura questo invito, secondo lei, di questo ascoltatore? Ma pur magari comprendendolo, no? No, umanamente comprendendolo, io sono dell'idea che in realtà invece l'adempimento tributario vada pagato. Nel caso specifico, poi, come è stato detto all'inizio, la mini IMU va nelle casse comunali, quindi in realtà i servizi che andrà a finanziare sono vicini al contribuente, in qualche misura si avrà anche un controllo poi sulla spesa che viene fatta, perché i servizi sono servizi comunali, non andrà allo Stato. Volevo tranquillizzare invece su un altro aspetto per quanto riguarda chi nell'incertezza sulla seconda rata IMU avesse versato meno. C'è nella legge di stabilità una cosiddetta mini sanatoria, quindi non riguarda il discorso minimo, ma chi a dicembre ha versato meno, ebbene chi a dicembre ha versato meno entro giugno del 2014 può versare, evidentemente con gli interessi, ma può versare quanto ha dimenticato di versare senza l'applicazione di nessuna sanzione. Questa cosa è contenuta nella legge di stabilità, riguarda un insufficiente versamento dell'IMU, quindi non chi non ha versato perché per precisa scelta esatto, diciamo, ma chi ha versato un po' di meno perché si è, evidentemente si certo. è sbagliato. Tra l'altro, per quale motivo è possibile che qualche contribuente che doveva versare la rata IMU appunto a dicembre ha sbagliato? Ma potrebbe essere perché ad esempio ha applicato un'aliquota del regolamento comunale sbagliata, leggendo l'aliquota ha preso banalmente un errore materiale di calcolo. Errore di buona fede totale. Errore di buona fede. Ecco, ripeto, chi invece l'ha omessa e non l'ha versata, non, in teoria non potrà usufruire di questa mini sanatoria. Dottor Nicoletta, dottor Speciale davanti a me che stanno sghignazzando. Per quale motivo? Per un messaggio di Marco da Ferrara che però ma non lui, leggiamo. No, ma lui è ormai... A proposito di tasse. Francesco, buongiorno, ci chiama da Milano. Vediamo che cosa buongiorno. Ci racconta. Buongiorno Francesco, benvenuto. Buongiorno. Andiamo. Buongiorno a tutti. Volevo fare una domanda relativa alla minimo. Sì. Ho provato a fare il pagamento ieri, ma con il modello semplificato o il modello normale S24 non è possibile pagarlo, in quanto non c'è la voce mini IMO e quindi quando vado a mettere il segno su saldo o qualcos'altro non lo prende. Allora, queste sono sviste? Sì, no, la voce non c'è, ma c'è un codice tributo però. C'è un codice tributo, bisogna usare il codice tributo, anche se al momento sul punto non è stato detto niente, bisogna usare il codice tributo anche che perché si usava per dubito che siano in circolazione degli F24 con la dicitura esplicita minimo, non esistono, infatti. Nella sezione dei tributi locali va compilata quella sezione col codice. Insomma, anche per pagare bisogna arrangiarci, vero dottor Speciani? Non infiammiamoci. No, stiamo calmi. Ecco, stiamo calmi. Le tasse vanno pagate. Sì. E noi però ogni tanto, questa è una regola. Invece noi ogni tanto sregoliamo, ci cambiamo. Per il nostro stile di vita è una assolutamente manna. Fa bene. Basta che lo Stato non abbia i comuni, non abbiano imparato questa cosa di mettere, ha detto, anziché far pagare tutto insieme, facciamo una tassa nuova ogni sei giorni, dieci giorni. Certo, infatti. Ma dottor Speciani, c'è una predisposizione del nostro intestino all'infiammazione oppure possono così comparire di punto in bianco in un momento specifico della vita? No, stia attento genere... a cosa le risponde, perché poi oggi pomeriggio ce la facciamo no, io. In genere dico che quando compaiono delle patologie più importanti, rilevanti, ci sono state grida inascoltate per mesi, settimane precedenti, quindi diciamo ecco, che facciamo c'è una finta crescita, di non aver sentito. C'è una crescita. Grazie, adesso nella prossima mezz'ora peschiamo gli ascoltatori con le domande più avvincenti, Massimiliano Sirone risponderà a tutti e noi invece... Ringraziamo Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi, Marco Lombardo, il dottor Speciani, il dottor Sironi. E grazie a te Nicoletta. Anche a te Deborina. A domani. A domani.